che al momento che però è bloccato in tangenziale. È latitante, sì, latita. Ha detto in autostrada, il che ancora è peggio, è ancora peggio, sì. Ma allora, esatto. Facciamo così. Siccome il mio co-conduttore... Però ci stava ascoltando, salutiamolo. Ciao Lolli, adesso ti chiamo. Ciao Lolli. Esatto. E fra l'altro, siccome questo super mega galattico co-conduttore coxico che ci accompagnerà per queste due prossime puntate in assenza di Pasquini, non l'ha mai sentito Lolli, io rimedierai subito con un bel fatemi certo. scendere, che dici? Lo faccio? Io? Sì, assolutamente. Faccio bene? No, perché... Mi sembra un'ottima scelta. Ok, anche per te W... Assolutamente, così mi faccio una cultura e appena arriva posso spacciarmi per grande fan, cosa che farò puntualmente. Ma lo farei di sicuro perché il pezzo è fenomenale. Benissimo. Fatemi scendere Riccardo Lolli. Ciao Pasquini. Ciao. Al momento il capolinea è tutto quel che ho. Mi guardo le mani ancora per un po'. Sale una ragazza ma è nervosa. Fotografo i suoi piedi, si smuove qualche cosa. Attraversano la strada paio di cinghiali, è ovvio che non sappiano di essere illegali, come mi conferma l'avvocato, che è sceso ma salito perché si è dissociato. Solo su un autobus veloce c'è solo la mia voce. Fatemi scendere adesso, l'autobus al piano, ho le forbici in mano. Fatemi scendere, mi sembra un condominio senza fine. Allora, hai capito di cosa stiamo parlando? Ho capito, fra l'altro io ho avuto un'esperienza che a pochi ascoltatori può capitare, penso, cioè di ascoltare, lo confesso qui per la prima volta, una canzone di Lolli, e nel frattempo Lolli mi ha sorpreso alle spalle E quindi insomma è un'esperienza che probabilmente non dimenticherò. Mi fa piacere anche perché la canzone Fatemi scendere, io sono salito ti sono arrivato alle spalle. E fra l'altro ha portato con sé una graditissima sorpresa e un graditissimo ritorno. Assolutamente sì. Vuoi facci sentire la tua voce di nuovo? Ciao a tutti. Eccolo qui. Come è riuscito ad essere bolognese già soltanto dicendo ciao a tutti? Fantastico. Insomma, scusami, ma... No, ma per carità, lo dico con la massima ammirazione. No, fra l'altro sì, perché in realtà questa terra, è forse spostata un po' più verso la Romagna, ha dato al Coxo grandissimi cantautori che spesso abbiamo avuto la fortuna di ospitare e di ascoltare. Dico bene, Riccardo? Nel pezzo che abbiamo appena sentito, in effetti c'era Enrico Farnedi alla voce, all'ukulele, anche Loisatti alla voce, al coro, insomma. E in effetti, io poi aspettavo anche Farnedi, gli avevo portato anche delle camicie stirate per Farnedi. Perché non ne ha. No, ho comprato, una storia lunga, non so se vi interessa, ho provato a comprare della roba su un sito cinese degli abiti, sì, che costa niente, tipo 10 euro un giaccone imbottito, una cosa così. Che è di questa stagione, solo penso al pensiero. Ma infatti no, io l'avevo ordinata in gennaio, in marzo ancora non era arrivata. All'inizio di giugno ho saputo che l'ha ricevuto uno svizzero, la mia giacca. Io in compenso ho ricevuto una chiavetta USB destinata allo svizzero. Cioè c'è stato il corriere, hanno fatto un po' di... E lo svizzero si chiamava a questo punto? Andrea, non mi ricordo. Salutiamo Andrea. Neanche un omonimo, proprio. Hanno invertito gli indirizzi con i nomi. Sono cinesi, gli ideogrammi. Le camicie invece mi sono arrivate, però la loro XL è per me una S. Allora... Sì. E quindi le volevo regalare a Farnedi, che è magrolino. Ma sono dalle camicie, quelle a quadretti come usa lui di solito? No, ce n'è una, adesso non mi ricordo, ce l'ho in macchina. Sono particolari, ci sono dei disegni un po' che fanno schifo al genere umano, fanno schifo, ma a noi piacciono. Insomma. Perché siete dei grandi artisti. È questo che fa il grande artista. Tra l'altro, io solo recentemente ho scoperto, guardando commenti su internet, non è un grande aneddoto, ma insomma lo dico lo stesso, che non bisogna mai ordinare vestiti dai cinesi. Sì, è vero, l'ho sperimentato sulla mia pelle, sì. Okay, e io invece mi sto scapicollando a cercare un brano di Enrico Farnedi e lo trovo. E se queste camicie di cui dicevate fossero pure nere, mi andrebbero a collimare perfettamente, sì, con la canzone che stai per mettere, vediamo se ho capito bene. Che io ho trascinato Nuovo Nero di Enrico Farnedi e mi ha tirato fuori Mille Bolle Blu. Riproviamo. Nuovo Nero, stavolta me l'ha data. Ci facciamo un giro di Farnedi? Assolutamente. Senz'altro. Sì. che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Nuovo nero per davvero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma che buono il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. E lo spieghi il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. Ma si mangia il nuovo nero. C'è questo mito che ha un impermeabile giallo che è praticamente il nuovo nero. E questo era Enrico Farnedi, che salutiamo, e dato che ci siamo, un salutino anche a Estrema Riluttanza e anche a Susi Muso Grigio, che non la sentiamo da un po', ma che so sta suonando un sacco in giro. Ci ha messo a suonare, sì, suonava anche prima, però si è buttata nei tour, che la si vede in ogni foto col suo ukulele che passa da un palco all'altro. Sì. È un bellissimo nome, Estrema Riluttanza. Mi ricorda i Peanuts, fra l'altro. C'è una famosissima vignetta di Snoopy. Potrebbe essere una citazione. Infatti, credo che provenga proprio da lì. Sono molto orgoglioso di me stesso. Ti lascio con Estrema Riluttanza. Esatto, bravissima. quella. E io non lo sapevo, per esempio, è stata anche qui a trovarci e non mi era sfuggito. Vedi a cosa serve il conduttore coxico. E il super mega galattico ospite che conferma, perché naturalmente, poi... perché la mia autorità da solo non basterebbe, però... No, per preparare un po' il conduttore coxico a chi fosse il nostro ospite, io gli ho spiegato quello che già tutti i coxonauti ascoltatori sanno, ovvero che Riccardo Lolli è, prima di tutto, una garanzia. Ok. E che, insomma, lo sappiamo, quando ci sei tu le puntate vanno sempre bene in un modo o nell'altro, finché sono in garanzia. Dopo 2 anni bisogna rinnovarla a pagamento eventualmente. A che punto siamo? Abbiamo fatto 1 anno e 3 quarti, sono già tre. No, come? Sono già oltre 3 anni, perché siamo fuori dalla garanzia, ma funziona ancora. Funziona perché è fatto bene. Sì. È fatto come una volta. Sì. Bello pesante, che dà, sì. Ma sì, come la lavatrice di mia nonna, sì, che esatto, era una. Esatto. Non posso dire la marca, forse, perché siamo in radio. Forse mi no. Dimentico che siamo in radio qualche volta. Va bene, comunque, a proposito di anni e tempo che passa, e di passaggi e di viaggi, voi ieri non eravate qui. Ieri eravamo ai Kew Gardens, come ultimo giorno di un giro che abbiamo fatto a Londra con la famiglia. E siamo tornati questa notte. Non chiedetemi niente sul Brexit, metto già le mani avanti perché non ho avuto modo di seguire, se non che magari su questo è più preparato il giovane Lolli, sai, questi giovani adolescenti. Mi sa pure di no, eravamo proprio persi nella No, fra l'altro, sì, mi viene in mente un momento della Certosa di Parma in cui a un certo punto il protagonista si trova nel mezzo della battaglia di Waterloo e non si rende conto che è la battaglia di Waterloo. Cioè, voi in mezzo a Londra probabilmente eravate meno coscienti di cosa stava accadendo che noi qui a distanza. Sì, sì, sicuramente, sì. Quindi ma io poi... Siete forse le persone peggiori a cui chiedere proprio perché eravate lì. Esatto. Però erano a vedere quell'altra cosa. Cosa? Quella che hai detto prima. Oh, mi sono già dimenticato. I Kew Gardens, vabbè, no, quello è stato un giro nell'ultimo giorno, i giardini Royal Botanic Garden. No, riguardo al Brexit, l'unica cosa è che ho avuto modo di sentirmi solidale con quelli, con gli I'm in, con il fronte che volevano rimanere in Europa, visto che erano sparpagliati in tutta la città per distribuire adesivi, sciarpe, cose varie, e mi volevano dare degli adesivi, chiedevano qualcosa, ma io dico, guarda, io sono italiano, a me mi fa molto piacere se rimanete, a me personalmente. Poi, anche perché poi sei andato a registrare lì, a mixare, a post-produrre il tuo album. Sì, il master dell'album. Ad Abbey, quella roba lì. Abbey Road, non siamo riusciti neanche a andarci, quest'anno volevamo andare. Fantastico. Volevamo andare a farci un giro, ma pioveva di rotto, abbiamo sbagliato autobus, siamo diventati cretini per un paio d'ore, poi siamo tornati in albergo perché non ce la facevamo più. Sono successi tantissime cose brutte in quella giornata. Beh, brutte, pioggia e male, errori generale di valutazione sui trasporti, però. E come vi trovavate con questa cosa che guidano dall'altra parte? Ah no, non guidavamo mica noi. Ma dicono che anche per attraversare la strada... Per attraversare la strada aiuta la scritta sotto... Tu guardi per terra, c'è scritto look left, look right. Ci devi sempre pensare un po', io ci penso sempre un po', però aiuta questa cosa. Ma in effetti bisogna stare un po' in orecchia se non sei... abituato. È che oggi sono passata in centro, in Piazza Santo Stefano, è passata questa macchina elettrica che proprio non produceva nessun rumore. Ah, quello è un bel problema. No, sì. è interessante che le macchine non facciano questo a cacofonia, insomma, non concorrono all'inquinamento acustico. Però effettivamente è un'abitudine che lo senti che sta arrivando il pericolo su quattro ruote, no? Quello sì, perché siamo abituati a questo. Ci dovremmo abituare anche alle macchine silenziose. E io che, come ti dicevo, ho appena preso casa, praticamente che si affaccia su Via Libia, mi piacerebbe che le auto elettriche silenziose entrassero in funzione il prima possibile. Bene, allora... Cosa facciamo adesso? Ti abbiamo chiesto di recente, siete stati a fare questo viaggio, fra l'altro vendavano le sciarpe, quindi mi sa che faceva freddo. Sì, beh, per loro era caldo, per noi era, insomma, diciamo... Magliettina della salute sotto. Sì, ecco. Sì, una magliettina ci voleva e comunque, no, c'è stata una gran bella giornata, la giornata del London Gay Pride. Ci siamo capitati in mezzo e quello lì capivate benissimo di cosa si trattava. Sì, di cosa si trattava. È stato molto bello, molto piacevole, perché non ha niente a che vedere con quello a cui siamo abituati, per esempio a Bologna o in Italia in generale. Cioè, sì. Lì c'erano anche i poliziotti truccati con gli arcobaleno, hai capito? Infatti. Ma che spettacolo! Ma erano veri poliziotti? Sì, sì, sì, sì. In servizio? No, sì, sì, in servizio. C'è una scena che è stata ripresa, ovviamente condivisa tantissimo, di un poliziotto che ha fatto una proposta di matrimonio a una persona, il fidanzato che era nella folla, accettato, tripudio naturalmente, questa cosa è diventata virale. Ah, come quei programmi di tipo La vita in diretta, Ti sposo in diretta, cose così? Sì, però amatoriale. Ci piace pensare che nella vita in diretta, alla vita in diretta non sarebbero andati e non l'avrebbero fatto. Per strada così l'hanno fatto. Al Gay Pride, giustamente. Sì, io mi sono posto il problema, ma è il poliziotto nel senso di riprendere una tradizione così, village people, eccetera, un poliziotto vero. Era un poliziotto vero e quindi questo rende tutto molto più romantico. Scusatemi, però a questo punto avrebbe potuto prendersi una multa o qualche cosa, un rimprovero, no? Ma da chi? Non devono stare tutti precisi che sono in servizio. Ma oddio, non so a che titolo fossero in servizio, non lo so, è una buona domanda in effetti. Però evidentemente l'amore vince sull'odio e quindi... C'è anche secondo anche me una logica in Inghilterra che a noi è sconosciuta, cioè sono così inquadrati che quando è il momento di lasciarsi andare si possono lasciare andare, come per esempio la BBC, vedi con la maglietta della BBC. Siamo andati a visitare gli studi della BBC, c'è una parte che si può visitare proprio nel momento in cui partiva il Gay Pride, e c'erano tutti gli impiegati, tutti della BBC, con la loro maglietta apposita BBC Pride, che uscivano, avevano un programma molto schedulato, come dire, alle 10.10 questo, alle 10.20 questo. Tutti gli impiegati della BBC uscivano al London Pride con il loro programma prestampato e dovevano partecipare. Quindi dalle 10.10 alle 10.15, fai una tappa a pranzo perché poi devi tornare in ufficio a lavorare. No, era tutto fuori, tutto stabilito in giro per Londra. Ma insomma, ci piace come modo di farci, mancherà forse che non è più... Ma rimane lì, resta lì. Secondo me l'Inghilterra non doveva votare di uscire dall'Europa, avrebbe dovuto votare di uscire dall'Italia, cioè di, come dire, di se ci siete voi teste. O ci siete voi o ci siamo noi, ecco, perché come i bimbi, no? Se vai via te o vado via io, ecco. Va bene, su questa sai cosa ti chiedo? Te lo chiedo dopo. No, perché io so che tu hai fatto, sei un po' reticente, ma hai fatto qualcosa, hai attivato qualche cosa di recente che potrebbe essere interessante anche per chi ci ascolta e ti vuole ascoltare proprio a te un po' di più. Però a questo punto non lo so, perché mancano 4 minuti alle pubblicità delle 7:30. Non facciamo in tempo ad ascoltare qualcosa e magari... Facciamo in tempo il brano, ce ne sono diversi, ne possiamo scegliere uno breve, lo mettiamo dopo le menzioni ci dici di cosa si tratta? Certamente. In gran segreto Lolli mi ha indicato, quindi non sono io che scelgo ma è lui, il maestro in persona, mi ha indicato quale canzone, il titolo è Gli occhiali, e eccola. Sì. finalmente ho rotto gli occhiali, vedo situazioni fenomenali, finalmente ho rotto gli occhiali. Esco la mattina, c'è gente che cammina e non vorrei essere nei loro panni, sono già morti da 15 anni. Provo ad articolare una frase compiuta, ma non riesco ad arrivare a... In via dei giornalisti, ma non li ho visti, i giornalisti. Non dico che dobbiate cambiare, almeno vi potreste lavare. Finalmente io non sto più chiaro, e perché no, vedi cosa va male. Finalmente io non sto più chiaro. Ho sbagliato tre volte il PIN della SIM, devo buttare tutto via. Anche il caricabatteria, la mamma compra i sofficini per i suoi bambini, li cresce con il nickel cadmio, può contenere tracce di formaggio. Un'onda anomala a Roma non si è mai vista, sommergere l'ora di vista, così almeno si potrebbe lavare. Sento puzza di merda, siete voi, o sono io che mi sono distratto? Proprio adesso che ci sono le elezioni, nell'accostamento mi sembra appropriato, mi piacerebbe fare il presidente del Senato. Creatività generica. Cox spaziale. E rieccoci in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujica 103.1, e questa è la 146esima puntata di Cox spaziale, che vede come super mega galattico ospite Riccardo Lolli, accompagnato da Giulio Lolli. E la co-conduzione coxica firmata Luca in veste W genovese. Che sono io. E abbiamo fatto. Io, sì. Ok, a questo punto sappiamo tutti a cosa stiamo andando incontro. Tu, Riccardo, e anche tu, Giulio, perché l'avete già fatto, ne avete già lette. E quindi mi sosterrete il Luca, che invece che è alla sua prima. L'angolo della menzione. Ma che allegria! Come ti senti? Ti senti un po' agitatino? Io? No, sto benissimo. Sto benissimo. Sì. Allora vai tu con la prima. Vado io? Sì. Allora, la prima menzione. È in corso il crowdfunding per la realizzazione di L'Eterna Lotta, una commedia dello studio Indici Opponibili. Un uomo, un albero, un angolo di paradiso. Che pace. Sarebbe tutto perfetto. Perfetto. È che non ci sono più gli angoli di paradiso di una volta. Questo è il tema di L'Eterna Lotta, in cui l'uomo e la natura saranno protagonisti di una commedia slapstick muta, degna erede dei cartoni come Tom e Jerry, Wile E. Coyote e basta. Sostieni la realizzazione di questo corto, scritto e diretto da Andrea Montuschi e interpretato dal bravissimo Diego Casale e dalla natura. Partecipare al crowdfunding è semplice e in più si vincono ricchi premi e cotillon. Meraviglioso. Come ti senti adesso? Meglio, effettivamente. Vero? Meglio. Pensavo di stare bene prima, ma adesso sto meglio. Sì, si varca una soglia. Eh sì. E io sono un po' triste di dire che purtroppo non sono riuscita a prendere il collegamento con Andrea Montuschi, che doveva dirci qualcosina di più e anche risalutarci, perché lui è stato lo splendido mega galattico co-conduttore delle puntate di maggio. Ecco, quindi l'avrò anche sentito qualche volta. Però possiamo dare il sito internet www.eternalotta.it, tutto attaccato. Esatto. Oppure la pagina Facebook L'Eterna Lotta, tutto attaccato, no apostrofi, no accenti, no di niente. L'Eterna Lotta su Facebook. E in ogni caso, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, come al solito, tutti i riferimenti, i link per andare ad approfondire le menzioni e anche le foto per vedere gli splendidi megagalattici ospiti che della puntata in corso. Cioè, voi. Cioè, voi dopo questa sudata che mi state facendo fare qui dentro mi fate anche una foto? In effetti settimana scorsa la foto non l'abbiamo fatta. Ecco, allora andiamo. No, no, vabbè, sto scherzando naturalmente. Va bene, chi va con la seconda menzione, che è piena di nomi strani e io con la mia dislessia di ritorno andata non la leggerò mai, perché voglio bene alle persone che hanno prodotto questo evento. Ma vado io perché conosco bene il nigeriano e ci sono alcuni nomi. Ma allora... vedi che Riccardo Lolli, cioè, si va sul sicuro, in una botte de ferro con Riccardo Lolli. Allora, venerdì 1 luglio alle ore 20, cine, cena, cibo e pellicole dell'altro mondo al cortile dei palazzi di via Gandusio 6, 8, 10, 12. Cena con piatti dal Nord Africa. La cena è a offerta suggerita. Tira il dado da 1 a 4, offri l'estratto in euro. 5, mangi e sparecchi. 6, mangi gratis. A fine cena, col calare del sole, cinema Nollywood. Oswofia in London di Kingsley Ogoro, Nigeria. Per informazioni e prenotazioni da domani su www.cascospaziale.blogspot.com. Meraviglioso, anche col nigeriano, non ho parole. Grazie a Pasquini, cioè il coxo vale la pena di essere stato fatto solo per farti, cioè per averti potuto incontrare, lo parlo per me, che gli altri ovviamente ti conoscevano già. E per approfondire ulteriormente la conoscenza, io direi un altro branino musicale da questa cosa di cui ci direi dopo. Scegliamo, c'è una grande c'è molta scelta, c'è l'imbarazzo della scelta, anche perché noi stiamo pescando una cosa da la raccoltona poi è intanto Tracotanz. Ok, allora mettiamo pausa su quello che sta andando adesso. Che non sta più andando in realtà. Allora tiro su lentamente, qualcosa sta andando però, sta andando in fondo a destra, che noi coi lettori online abbiamo sempre... provato la settimana scorsa con Cloud, SoundCloud, abbiamo fatto di quelle figure, ragazzi. Stiamo andando sempre Lolli dal... perché ce n'è talmente tanta di musica di Lolli che potremmo fare tre volte il nastrone di mano. Esce da tutti i pori, dove ti giri, da tutti i canali. Benissimo, allora siamo pronti? Tracotanz, andata. With your Apple Pie, I hope E rieccoci di nuovo in diretta. Conosciamo sempre un po' di più le sonorità di Lolly e qui poi accadono cose che ci portano avanti nel nostro l'angolo della menzione. Last but not least, si dice così? Sì. È una menzione che verrà letta dal nostro, uno dei nostri ospiti preferiti, Giulio Lolly. Ed è, lo diciamo, la più difficile. Sì. Perché credo ci siano quattro lingue dal latino in su che si intrecciano, quindi... Vai, impavido Lolly. Impavido. Sabato 2 e mercoledì 6, per Aspera, festival nella città metropolitana a Grizzana Morandi e Casalecchio di Reno. Terza e quarta tappa della programmazione che Per Aspera Festival organizza nella città metropolitana. Sabato, negli incredibili spazi di Rocchetta Mattei, verranno presentati due lavori performativi ed un'installazione nell'ordine. Giuliano del coreografo Fabrizio Favale. Per un nuovissimo bestiario, Rocchetta Mattei e l'installazione L'odore della mia vita di Fassbinder's Wives. Mercoledì concluderanno la rassegna I Cadaver Exquis. con Stupor i fratelli Brosh con Filo Conduttore e 10.180.000 di Matteo Montanari più Simona Cafagna. Bravissimo. Ah. Era veramente difficile. Ecco, è ripartito anche lo stacchetto un po' in ritardo. E sì, complimenti soprattutto per quel numero così lungo, non sarei mai riuscita a leggerlo poi. E poi non so se avete sentito una piccola risatina in sottofondo. Ah sì? Sì. Sì, è la dolce risatina della fata di Per Aspera. Ride di noi? No, era... Ride era con noi. Infatti, ride allora con sì. Noi. Sorrido compiaciuta, siete stati bravissimi, avete detto tutto, quindi il mio intervento è praticamente superfluo. Ok, ciao Maria. Ciao e torna a trovarci. No, dai, dici qualcosa di più per piacere. No, siete stati veramente bravi. Quello che posso aggiungere è che rispetto alla data di sabato in Rocchetta Mattei, questo castello quasi disneyano, meraviglioso, aperto da poco al pubblico, verranno presentati, come dicevate correttamente, due lavori performativi ed una installazione, e sono tutti e tre lavori site specific, quindi realizzati appositamente e presentati in anteprima per Aspera alla Rocchetta Mattei. Abbiamo pensato che quello spazio fosse talmente bello che andava valorizzato con lavori creati apposta per quelle suggestioni e abbiamo proposto questo a tre artisti che noi stimiamo particolarmente e che sono sempre ospiti del nostro festival: Fabrizio Favale Le Supplici, Fedra Boscaro e il collettivo messicano Fassbinder Wives. E loro hanno accettato la sfida e consiglio assolutamente di respirare l'aria della Rocchetta Mattei attraverso i lavori di questi tre artisti. Guarda, mi permetto di dire una cosa, giusto come se fossi chiamata in causa, ma quasi. È stata una sfida meravigliosa e non vedo l'ora che venga sabato. Sì. Poi con tutte le complessità del caso, sì. Perché comunque lavorare in uno spazio che è adibito anche ad altre attività è sempre complesso, però i nostri artisti hanno una marcia in più, sono certa che il pubblico sarà molto molto felice. Aggiungo un'altra cosina a favore della fruibilità: gli spazi della Rocchetta purtroppo non garantiscono o non riescono a gestire un numero troppo elevato di persone, perciò Per Aspera, contrariamente alle sue solite alla sua vocazione di completa accessibilità, ha dovuto mettere la prenotazione obbligatoria. Sì, una prenotazione che raccogliamo all'indirizzo mail info@perasperafestival.org e l'ingresso è gratuito con un contributo libero nel caso in cui il pubblico voglia lasciarlo, insomma. E rispetto alla prenotazione, Fedra, cercheremo comunque di includere il maggior numero di persone possibili, quindi invito comunque a scrivere, poi qualcosa ci inventeremo. E magari negli eventi Facebook legati al festival e ai singoli spettacoli provare a promuovere un po' di car sharing. Fatevi sotto, ragazzi! Eh sì, infatti, in caso di disponibilità al car sharing, assolutamente formula benvenuta. Grazie Maria e ci vediamo sabato sicuramente. a sabato e eventualmente anche a mercoledì 6 a Casalecchio di Reno. Certamente. Un bacio, ciao, grazie. Grazie, un abbraccio, ciao. Ciao. Ciao. E le menzioni sono andate. Fantastico. Come vi sentite, ragazzi? Ma ne vorrei delle altre, ce n'è delle altre? No. Ce le possiamo inventare. Però io sì, una da inventare ce l'avrei. Sbrigatevi ad andare online sul sito che troverete da domani su www.coxspaziale.blogspot.com, dal quale noi adesso stiamo ascoltando i brani che Riccardo Rolli ha messo nella raccoltona. Che cos'è la raccoltona? La raccoltona è una raccolta corposa di brani miei vecchi, diciamo, dal 1996 al 2006, con un paio di eccezioni. Hai fatto 20 anni di cantautorato? Sì, ma anche 30, se vogliamo. 30. Io le prime cassettine sono del 1986, per cui sono esattamente 30 anni. Però è tutta roba che vorrei cancellare. Cioè, la tengo io come archivio, ma non è disponibile per l'ascolto, perché è robaccia. A meno che qualcuno, tipo Giulio, non trafughi qualche cosa da. Perché io so di questa stanzettina, io mi ricordo di setup, sì, della tua, sì, stanzina con tutta l'attrezzatura, tutti gli archivi e di come. Se riesci ad orientarsi in mezzo agli hard disk, è già tutto anche in digitale, c'è tutto passato in digitale, però insomma non credo che. No, no, tra l'altro. Non credo neanch'io che riuscirò mai a farlo, perché. Ma come? Poi soprattutto non gli interessa, ecco, fondamentalmente. Anche. Ecco. E Giulio, scusami, tu hai cominciato a fare un po' di musica tua? No. Non ancora? Cioè, no, perché ancora sto studiando e ho ancora un piccolo libro dove ci sono due testini così da suonare, ma poca roba. Quindi diciamo stiamo affilando gli strumenti prima di... Più o meno sì. Ok, capisco. Come ti senti tu, padre? Ma io, se fosse per me, sarebbe lo studio matto e disperatissimo, però non è possibile, per cui lo lasciamo nella leggerezza dei tablet, delle cose. Ma tu quando hai cominciato ad incuriosirti con la musica? Alle origini del Lolli? Le origini, io ho cominciato prestissimo, perché mia nonna era maestra di pianoforte, aveva un pianoforte in casa, io già a due o tre anni cominciavo a spingere il tastino. E poi sono andato a lezione dal maestro Bussoli dell'Antoniano, il quale però mi prendeva sberle sulle mani, e la cosa quando avevo 6-7 anni non era molto piacevole. Quindi ho insistito per dargliela su, e ho ricominciato poi alle medie con il professore delle medie, che invece era il professor Longega, che è molto bravo e non dava le schiaffette, anzi mi ha fatto conoscere tante cose, il folk inglese, delle cose che amo ancora adesso. E soprattutto a me piace molto l'espressione dargliela su, perché traduce perfettamente l'espressione inglese give up, esatto. Quindi io non so chi ha iniziato prima, se gli inglesi a dire give up o i bolognesi a dire dargliela su, però questa corrispondenza è perfetta. Tra l'altro si diceva prima, vedi che Lolli la quadra sempre, o gli italiani se ne vanno o si va lì l'Inghilterra, per me sarebbe giusto così, l'Europa è lì o uno o l'altro, insomma. Se fossi nell'inglese avrei proposto questa, se ne sono andati loro, siamo rimasti noi. Sì, beh, ancora non se ne sono andati, ma come no? No, e non era un referendum. Hanno due anni, credo, di tempo per contrattare. Sì, ho capito. Adesso devono contrattare adesso e due anni di tempo per. Gli inglesi sono inglesi per qualcosa, se fanno un referendum. Non è un referendum come i nostri, immagino. Va bene. Comunque su Bandcamp, per chiudere questa pubblicità, progresso, è Bandcamp. Dunque, allora la pagina completa per arrivarci direttamente è riccardololli.bandcamp.com. In alternativa si va su bandcamp.com, che è un sito di distribuzione digitale. Cercate Riccardo Lolli, lo trovate subito, c'è buona parte della mia discografia, sia in digitale che nel caso dell'album del 2014, c'è anche il CD, le magliette, c'è il dipinto originale di Pasquini in vendita, il dipinto che è stato utilizzato per la mia copertina. Ottimo. È un po' costosetto, per forza. È un'opera unica, sì, di un artista rinomato. Sì, se qualcuno volesse spendere molti euro per tenere il mio faccione in casa, è disponibile, sì. E poi c'è anche questa raccolta, questa selezione delle tue opere da la raccoltona, nell'attesa di un futuro, album nuovo che è in produzione da un pezzo, ma non posso pronunciarmi, non posso lamentarmi, non è il caso di parlare del mercato discografico e delle possibilità che non ci sono. A me il raccoltone qui per cui mi sembra già una bella cosa, perciò per me almeno che ti vengo a sentire un po' di più, perciò intanto mi viene da mettere questo, così per tagliare la testa al toro. Perfetto. Ok, invece per continuare ci sentiamo un altro branino dei tuoi oppure facciamo un ascolto da un brano che ci ha portato il nostro co-conduttore Coxico? Ma direi che è il momento del co-conduttore. E magari poi lo discutiamo insieme, ce lo vuoi introdurre? Ma sì, in realtà è un brano che non ha nessunissimo bisogno di introduzione, perché celeberrimo, il gruppo è un gruppo degli anni, fino agli anni 60, sono formati nel 68 se non sbaglio, sono i Can, non so se li conosci. Uno dei miei gruppi preferiti. Ha visto, che robetta che ti tiro fuori. E il brano è uno dei meno complessi, nel senso dei più canonici nella forma, fra i loro, ed è Vitamin C, che è anche quello più celebre forse al grande pubblico. Che meraviglia. Allora io metto play e poi ne parliamo insieme, salutandoci a con vicenda, calma. Sì. Eh? Benissimo. Vado? Vai. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo. Le levette sono tutte a posto? È questo? Ed è partito adesso. La 146esima puntata di Coxo Spaziale sta volgendo al termine. No. E come facciamo? Ah, è tornato Pasquini. Papà. È papà perché lui è il W, è in veste W per queste due puntate. Aggiornavo i Lollies. Lolli erano sì assenti durante questa riconoscenza. Come si è comportato a Lolli? Si è comportato bene o lo devo sgridare? No, benissimo, come sempre. Lolli è sempre sinonimo di qualità, anche di garanzia, anche se abbiamo scoperto che è scaduta l'anno scorso. Credo chiedesse a Lolli come mi sono comportato io in quanto figlio. O sbaglio? Ah, ecco, Lolli, come si è comportato il nostro genovese? Una piacevole conversazione, una piacevole co-conduzione e una piacevole scelta musicale. Secondo te, ma lo conoscevo io, vero? Sì. Io no, tu non lo so. Ma io sì. Ma no. Assolutamente no. Ma vabbè, che questa cosa del W magari vi ha messo in connessione in qualche momento, sai che il passato è presente e futuro. Praticamente sembra hai chiamato un altro Luca Genovese che non è il Luca Genovese che conosciamo. Esatto. Vabbè, cioè, come cazzo faccio io a saperlo al telefono, capito? Vabbè, io e te conosciamo un Luca Genovese, ne chiami un altro che si chiama Luca Genovese, è difficile. Comunque vi volevo dire che sono in questo spazio super giovane, un opening di una galleria che si chiama Current qua a Milano ed è super giovane, ci sono dei gran grissini. E che è lo spazio di un omonimo del nostro super mega galattico ospite della 165esima puntata di Coxo Spaziale. Ah sì? Ah sì. Ecco, perfetto. Riccardo si chiama, hai detto prima. A pennello. Ma sei sempre lo spazio di Riccardo o sei un altro adesso? Ti sei spostato da prima? Eh sì, mi sono spostato. Ah certo. Beh, scusami allora. Allora non è più l'omonimo. Ma no, stavolta si chiama Current questo posto. Ok. E non lo so, vuoi scambiare due battute con Lolli, interrogare un po' W Genovese? Quando è che ci vediamo, Lolli? Ehi, ti devo dare una cosa anche a te, per Farnedio le camicie, per te ho un adattatore della macchina fotografica, sono pieno di consegne da fare, adesso bisogna che ci vediamo. Come facciamo? Ci dobbiamo dare un appuntamento? Faremo una festa, un gay pride, chiedo qualche cosa. A Croci di combinare qualcosa, dai. Bravo. Va bene. E c'è Giulio che vuole vedere anche i flipper, che è un pezzo che non... Dopo... Ah ecco, no, infatti anche Nicolino ha voglia di vedere dei flipper, per cui... Dopo questo meraviglioso scambio io vi informo che sono apparse sul computer del Nastrone le pubblicità delle 8, quindi vogliamo possiamo salutarci. È stato bello e ho pianto tanto. Ok. E comunque io e te, Fedra, non ci vedremo mai più. Ma magari dopo il 14? Dopo il 14 c'è il 16 in cui io vado in vacanza. Ok. Va bene. Su Skype. Coxo Skype. Certo. Ah sì, fra l'altro ho comprato un nuovo doppino, possiamo già fare uno Skype la prossima volta che arrivo. Meraviglia delle meraviglie. Va bene. Ottimo. Allora io ti abbasso il volume e saluto con ordine il mio co-conduttore. E io vi bacio con la lingua, perfetto. Ah, posso mandarti faccia al muro anche al telefono? Certo. Ah, allora vacci. Ciao. Ciao Pasqua. Ciao. Anche Pasquini fa sempre la sua bella presenza. Sì. Hai capito W? Capito che eredità pesante. Però secondo me te la sei cavata dignitosamente. Poi hai avuto anche la sottoscrizione del contributo musicale di Riccardo Lolli, quindi, che insomma, l'esimio. Cosa vuoi di più? E quindi a questo punto ci salutiamo e ciao caro Luca in veste W genovese riconfermato per la prossima settimana. Ciao Riccardo e Giulio Lolli. Ciao, grazie ad entrambi per la piacevole ora, anzi tre quarti d'ora perché causa imbottigliamento autostradale. C'era una manifestazione, non lo so, non ho capito. È tempo di manifestazioni. Ciao a tutti. Ciao, tornate presto.